24 mattino. Sono le 8:17 minuti, ben ritrovati a 24 mattino, è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Ed eccoci qui, Deborah Rosciani, ben ritrovata. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, adesso qua si pone un palese conflitto di interessi. Perché io do il numero degli sms, 349-238-6666. Senti sì. Come l'ho scandito bene sì, oggi. Sì, bravissimo. Benissimo. No, tra l'altro, ancora prima di darlo, già degli ascoltatori sul tema che vogliamo affrontare hanno scritto. Perché oggi parliamo degli sms, esatto. Insomma, che sono troppo costosi e quindi c'è l'authority che vuole vederci. Guarda, tra l'altro, per la verità, guardando i giornali, io stamattina avevo avuto la tentazione di affrontare un altro argomento perché ho scoperto che l'istituto che misura la rispettabilità delle aziende, il Reputation Index, ha assegnato alla Ferrero e quindi alla Nutella la palma di azienda più affidabile al mondo. Io ho avuto la tentazione per un attimo di affrontare questo argomento, Alessandro. Invece non si sa se per la Ferrero o per la Nutella. Esatto, comunque. La reputazione delle compagnie telefoniche, che invece è tutt'altra, sulla base anche di questa ennesima indagine, di questa ennesima rilevazione. Ma tu mandi di molti messaggini al giorno? No. No, sono non sei un po' uno scatenato un uomo come antitecnologicus. No, perché in caso affermativo dovresti fare attenzione, perché rientrando tu, e non certo io, nella categoria anziani, potresti pagare un sms a prezzo pieno, quindi 15 centesimi. E rientreresti, Alessandro, in sostanza in quel 25% della popolazione italiana che paga troppo il servizio appunto di short message. Questo lo ha stabilito, ovviamente sto scherzando con Alessandro, che è tra l'altro molto più giovane di me, e quanto ha stabilito l'indagine adesso sulle tariffe di SMS, approvata martedì dal Garante delle Comunicazioni ed è arrivata ieri sul tavolo dell'Antitrust, l'autorità garante del mercato. Allora, che cosa è successo? Questa mattina proviamo a spiegarlo con il presidente del Movimento Difesa del Cittadino, Antonio Longo. Presidente, buongiorno, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Tra l'altro, Repubblica ha dato anche una definizione piuttosto curiosa di quelle figure, di quelle persone, di quegli utenti che pagherebbero gli sms più degli altri, senza mezzi termini, definisce gli spennati. L'analisi divide in sostanza gli italiani in due grandi gruppi. Il 75% manda gli sms a condizione di favore, perché aderisce a offerte speciali, sono soprattutto i giovani a selezionare i pacchetti vantaggiosi. Un pezzo importante di società, invece il 25%, si fa spellare perché paga ancora il messaggino a prezzo pieno, 15 centesimi. Allora, qual è il commento delle associazioni dei consumatori, Presidente, rispetto a questo ennesimo monitoraggio sul comportamento delle compagnie telefoniche? Guardi, noi è da anni che denunciamo il costo eccessivo, diciamo in generale, riguardo tutti gli sms, perché effettivamente quello che paghiamo come consumatori italiani è superiore a quello che pagano gli utenti degli altri paesi. Adesso quest'indagine dell'Agicom, che poi è importante dirlo, viene esaminata dall'Antitrust per vedere se c'è un accordo di cartello tra i vari utenti, tra i vari gestori, conferma quello che noi denunciavamo in questi anni. Anni fa abbiamo fatto addirittura una sorta di sciopero degli sms, uno sciopero dei cellulari. Ebbene, la cosa diventa ancora più paradossale dal momento che fra poche settimane, dal 1 luglio, in tutta Europa mandare un sms non potrà superare gli 11 centesimi. Questo, diciamo, è un accordo fatto tra il Parlamento Europeo, la Commissione Europea, diciamo, e il Consiglio europeo, e quindi ancora più paradossale, diciamo, emerge questo costo che ha a carico soprattutto di quelli che giustamente Repubblica chiama polli involontari, in verità. Ecco, tra l'altro, Presidente, proprio alla luce di questa scadenza che lei ci ha segnalato, quella del 1 luglio, quando per volontà della Commissione europea il costo di un sms fra Parigi e Roma oppure fra Atene e Berlino non potrà superare gli 11 centesimi, come dire, diventerà vincolante anche dunque per le compagnie e gli operatori telefonici italiani? Quindi sì, questa... però appunto il paradosso è che costerà meno mandare un messaggino tra Oslo e Palermo che mandarlo tra Palermo e Messina. Indubbiamente dopo questa decisione della Commissione europea e del Parlamento europeo e soprattutto dopo questa denuncia, la vera e propria denuncia del garante delle comunicazioni, qualcosa dovrà succedere. Noi abbiamo già chiesto incontri urgenti con i gestori per affrontare il problema. Quindi in sostanza, per farci capire, rimarrà lo stesso costo sul mercato domestico, mentre sul mercato transnazionale in sostanza il costo invece si riduce. Questo è il rischio paradossale, diciamo. Se non interviene, adesso vedremo anche all'interno del Ministero dello Sviluppo Economico, che attualmente diciamo è competente per le telecomunicazioni, chiederemo un intervento anche al Ministro, all'autorità garante. Comunque sì, questa è l'assurdità. La valutazione comunque da cui voi siete partiti, e cioè che diciamo una volta tanto i giovani sono più fortunati perché saltano da un'offerta all'altra, selezionano pacchetti diciamo più o meno vantaggiosi, ecco, è un'ulteriore, come dire, pecca di questa strategia dei gestori, che punta soprattutto a spennare gli utenti che non sono in grado di seguire i cambiamenti del mercato. Utenti che peraltro garantiscono il 77%, secondo la rilevazione di cui stiamo parlando, delle entrate di questo mercato. Le compagnie si difendono e sostengono che il prezzo massimo dei loro SMS è sempre stato pari a 15 centesimi di euro, ma se questo è vero, Presidente, le società italiane, allora è vero che hanno stretto una sorta di patto per non andare al di sotto di un costo di questo tipo? Infatti noi ci aspettiamo adesso che l'autorità garante del mercato, l'antitrust, esamini approfonditamente il dossier dell'autorità delle comunicazioni, visto che in questi anni le nostre denunce non sono state molto efficaci, intervenga, perché è davvero assurdo che su 4 gestori di telefonia cellulare tutti quanti abbiano i costi allineati. Una volta erano 20 euro, 20 centesimi, poi si è scesi a 16-18, adesso a 15. Non si comprende davvero in che cosa si facciano la concorrenza. Ecco, allora, quale può essere, Presidente, il suggerimento di un'associazione dei consumatori per, come dire, non incappare anche in situazioni di questo tipo? Abbiamo già detto che chiaramente i giovani riescono a conoscere in maniera più semplice le offerte che sono sul mercato. Non capisco bene, tra l'altro, quale sia da poter considerare la categoria debole, che invece non può in ogni caso essere attivo sul mercato. Come comunque ci si può difendere da una situazione di questo tipo? Non è che ci sia una categoria che non può essere attiva sul mercato, è che di fatto diciamo tutti coloro che usano, non lo so, telefoni aziendali, piuttosto che appunto hanno una certa età e quindi non seguono la pubblicità, oppure pigramente diciamo non vogliono cambiare, sono le vittime di questo sistema. Ecco, la risposta è proprio nella possibilità di cambiare gestore. Oggi è molto più semplice i tempi della portabilità senza cambiare numero, quindi per passare da un gestore all'altro si sono accorciati di molto, e comunque bisogna farsi sentire, informarsi, perché la migliore difesa è sempre l'informazione e la reazione attiva contro questi abusi da parte delle società. Le opportunità del mercato ci sono, anche se questo qualche volta ci sembra un mercato particolarmente rigido. Presidente, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, presto. Grazie molte ad Antonio Longo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino. Alessandro, eccoci qua. E allora, alle 12 Salvadanaio, ricontrolliamo un po' quello che succede sul mercato dopo il taglio di tassi di ieri della Banca Centrale Europea e alla luce dei risultati dello stress test americano. Sono le 8:31 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Diamo uno sguardo alle notizie in primo piano. È una svolta storica nella lotta all'immigrazione clandestina, così il ministro agli interni Maroni definisce la decisione di rimandare in Libia 227 migranti che erano diretti a Lampedusa. Ma la decisione suscita le proteste dell'Alto Commissariato Rifugiati dell'ONU, che dice è un errore, bisogna rispettare la Convenzione di Ginevra. Il ministro dello sviluppo Scajola ha scritto al presidente della Fiat Montezemolo dopo le voci della stampa tedesca sulla possibile chiusura di impianti italiani nei piani del Lingotto. Per Scajola gli stabilimenti italiani sono centrali. Oggi il Papa inizia il suo viaggio in Medio Oriente, prima tappa la Giordania, poi Israele e i territori palestinesi. Grande apprensione per la sicurezza del pontefice. Infine si allontana la possibilità dell'estradizione dal Brasile in Italia di Cesare Battisti, l'ex terrorista che deve scontare l'ergastolo nel nostro paese. Per il procuratore generale dello Stato brasiliano, Battisti ha diritto all'asilo politico. E allora 349-238-6666 per i vostri messaggi alle 8:32 minuti. Parliamo di immigrazione, parliamo di questa decisione che il ministro degli interni, avete sentito, ha definito storica, di respingimento in mare, così l'ha definita. Per la prima volta sono stati riportati 227 immigrati nel paese da dove erano partiti, non dai paesi di origine per il momento, ma proprio dal paese, cioè la Libia, da dove erano partiti diretti a Lampedusa. Io sapete che ci sono state anche qualche tensione diplomatica, qualche problema nei giorni scorsi per il caso della nave Pinar tra il governo italiano e il governo di Malta. Io voglio salutare e ringraziare per aver accettato l'invito il ministro dell'interno dello Stato di Malta, Carmelo Mifsud Bonnici. Ministro, buongiorno. Buongiorno a lei e ai vostri ascoltatori. Grazie, ovviamente approfittiamo del suo perfetto italiano per intervenire. Non proprio perfetto, ma italiano. Ministro, le chiedo innanzitutto, secondo lei, dal punto di vista di Malta, l'Italia ha fatto bene ieri a respingere questi immigrati in Libia? Passo nel verso positivo, è giusto di avere un po' di logica, perché così facendo possiamo attaccare questo traffico illegale e criminale di gente. Non è più accettabile di vedere persone con queste barche che non sono forti, che rischiano la vita di attraversare il Mediterraneo e siamo passivi a questo grande dilemma, a questo grande dramma. Così facendo possiamo entrare in un programma per vedere le persone nel punto prima della partenza. Ecco, perché dobbiamo lavorare su questa linea di avere l'UNHCR, Medicine Sans Frontiere e altri per fare un programma nella Libia e per vedere immediatamente là e di dare soccorso là e di fare le cose là e eliminare completamente questo grande racket. Tu sai che per ogni persona questa gente prende $1,000 per il traverso. Questo è un punto molto importante, ministro, perché l'accusa dell'alto rifugiato, del commissario per i rifugiati è questa. La Convenzione di Ginevra stabilisce che prima bisogna accertare se qualcuno ha diritto allo status di rifugiato politico o di profugo. Lei dice facciamolo in Libia questo accertamento? Sì, naturale, naturale. Questa è la via di prendere, perché poi noi sentiamo anche tante cose da queste organizzazioni internazionali, ma poi spetta ai paesi di affrontare i problemi. Noi abbiamo una esperienza molto interessante. Allora sì, credo che questo è un passo molto positivo e che viene sostenuto con intelligenza. Noi siamo un paese umanitario, siamo un paese che aderiamo ai diritti fondamentali, ma vogliamo eliminare questo racket. Però, ministro, la nave, quando si è deciso di respingere, era nelle cosiddette zone di Save and Rescue maltesi, no? Allora la domanda è, oggi per esempio se la pone il Corriere della Sera, pare che il ministro dell'Interno Maroni abbia subito chiamato lei dicendo sono nelle acque maltesi e avrebbe capito che Malta non aveva intenzione, insomma, di intervenire, nel senso portando a Malta la nave. No, attento. Prima di tutto c'è una premessa sbagliata, perché il Search and Rescue va visto nelle convenzioni internazionali che dicono che il paese che ha il search and rescue ha il dovere di coordinare, non va sbagliata o fraintesa con acque territoriali. Acque SAR, il paese che ha l'acque SAR ha il dovere di coordinare il salvataggio, ma poi in questa convenzione c'è una clausola dove si dice che quando c'è il salvataggio le persone vengono prese dal porto più vicino per essere rispedite o nel loro paese d'origine o in altra meta. Quindi Lampedusa, allora, il porto più vicino. non va confusa. Per secondo, io e il ministro dell'interno Roberto Maroni ieri abbiamo parlato sulla svolta della Libia. E lui mi ha chiesto il mio parere, io ho detto che sono positivo, poi abbiamo concordato di andare in Libia, lui, io e Jacques Barrot, per fare il punto sulla situazione. Quando? Quando andrete? Quando io sono a disposizione di Roberto Maroni e quando Roberto Maroni mi dice io vado. Allora, la questione del PNR, la questione di qualunque altra cosa, noi l'abbiamo detto semplicemente, questo è un attentato di cambiamento delle regole, perché le regole internazionali, quasi si parla di diritto pubblico internazionale, questo non è una legge nazionale, qua si tratta di firmare trattati. I trattati che Malta e l'Italia ha firmato sono trattati nelle quali queste barche si trovavano nell'area più vicina a Lampedusa e per questa via venivano mandati a Lampedusa. Ministro, attento. Voglio anche smentire questa percezione sbagliata. Malta ha salvato nell'anno scorso 3.500 persone. Che vuol dire per voi, pro capita, perché siamo un piccolo paese, per voi 400.000 persone. Certo, percentualmente. Sta prendendo più del suo peso. E poi ti dico un'altra cosa. Questa gente non vuole venire a Malta. Questa gente vuol venire in Italia. È comprensibile, essendo Malta un'isola, voglio dire, mentre in Italia poi c'è la possibilità di andare negli altri paesi. Ministro, no, ma stia con noi, io voglio anche salutare, sta ascoltando le interessantissime parole del ministro degli interni di Malta, Lawrence Hart, buongiorno. Lawrence Hart è responsabile a Tripoli dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che è un organismo intergovernativo che dal 1951 fanno parte 125 stati membri, è molto attivo su questo tema della migrazione. Art, buongiorno, e le chiedo, questi migranti che sono stati rispediti in Libia, che ne sarà di loro secondo lei? Buongiorno a lei, buongiorno al ministro, buongiorno agli ascoltatori. Guardi, i migranti sono stati, in questo momento noi stiamo monitorando la situazione, sono stati portati in vari centri di accoglienza sul territorio libico in attesa di identificazione. Dopo il processo di identificazione, in quanto per la legge libica la partenza dal suolo libico senza in maniera irregolare costituisce un reato, queste persone verranno molto probabilmente rimpatriate. Nei loro paesi quindi di provenienza. Si dice la Libia non ha firmato la Convenzione di Ginevra, non aderisce alla Convenzione di Ginevra. Questo è un punto, secondo lei, dal punto di vista umanitario, per cui si può dire, come ha detto l'Alto Commissariato, cioè è stato fatto un errore, non è stata rispettata la Convenzione di Ginevra, oppure lei che ne pensa di questo respingimento? Guardi, io di per sé non ho tutti gli strumenti per potermi pronunciare su questo specifico caso. È sicuramente importante il discorso della Convenzione di Ginevra, come appunto si diceva, veniva sottolineato, la Libia non è parte di questa convenzione, quindi un giorno la soluzione ottimale sarà quella di avere come partner un paese come la Libia firmatario di questa convenzione. Tuttavia bisogna anche dire che esistono dei problemi oggettivi per la firma di questa convenzione, proprio gli strumenti attuativi e anche la preoccupazione del governo libico, che già si trova come unico paese in Africa, unico corridoio in Africa verso l'Europa, ad accogliere tanti migranti economici, se ne troverebbe ad accogliere ancora di più come rifugiati o richiedenti asilo. Quindi bisogna anche in un discorso di richiesta dalle autorità libiche di firmare la Convenzione del 51, bisogna anche tenere in conto le preoccupazioni per poter mettere in condizione questo paese di mettere in piedi gli strumenti attuativi di questa convenzione, sì, che non sono assolutamente semplici. Io vorrei tornare, Ministro Bonnici, le chiedo, questo è un punto importante, siccome la Libia non ha firmato la convenzione di Ginevra, lei dice identifichiamo lì se qualcuno ha il diritto di status di rifugiato e asilo politico, ma come fare se la Libia non aderisce alla convenzione? Ma per Bacco noi dobbiamo assistere alla Libia, e io sono quasi perfettamente d'accordo con quello che il signore ha appena detto. Noi dobbiamo assistere alla Libia, noi dobbiamo assistere alla Libia perché la Libia vuole cooperare. Noi dobbiamo fare del nostro meglio per dare alla Libia tutto quello che ha bisogno per poter essere in una posizione di entrare pure a far parte delle condizioni di Ginevra. Ma poi dobbiamo vedere un po' di più proattività dagli UNHCR e da altre organizzazioni. L'organizzazione che rappresenta il signore, noi abbiamo un ottimo rapporto e abbiamo visto che è un'organizzazione che lavora veramente sul campo e dà veramente risultati. E abbiamo avuto questa esperienza un po' amara a Malta. Tante organizzazioni internazionali vengono da noi, fanno un esame su quello che noi dobbiamo fare, poi ripartono, se come niente fosse, se come questa gente non esiste più. Ma quell'organizzazione che rappresenta il signor Hart è un'organizzazione che ha dato a Malta assistenza veramente on the ground, veramente, sì, realistico. Ministro, noi siamo in conclusione. Senta, ma la settimana scorsa si è parlata di... Adesso lei ci dirà di no, che il ministro Baroni, voi siete in ottimi rapporti, ma si è parlato di, insomma, di uno scontro diplomatico molto molto forte sul caso della Pinar. Sì, eh? Ha fatto un po' effetto vedere due paesi dell'Unione Europea che su un tema così delicato, che riguarda la vita delle persone, insomma, si sono scontrati in maniera così forte. È passata quella amarezza, è passata quella tensione, oppure c'è? Sono certo che è passata, ma se dovrebbe essere ripartire, saremmo pure sulla nostra posizione. Ma ti dico che è una situazione che ha dato risultati, perché nell'Unione Europea abbiamo visto che questo incidente ha dato risalto a questo problema dentro l'Unione Europea, perché questo non è solamente un problema dell'Italia o di Malta, ma è un problema europeo. E così facendo abbiamo avuto l'opportunità, Roberto Maroni e me stesso, di essere con Jacques Parot e di fare un programma di più aiuto. Nel primo punto noi abbiamo stabilito un pacchetto europeo più forte per la Libia. La Libia va aiutata. Questa idea che con la Libia non si può collaborare o con la Libia è un dialogo che non si parte è completamente sbagliato. E su questo, guardi, ministro, lei ci ha detto che andrà con il nostro ministro Maroni, con Jacques Barrot, in Libia. Insomma, attendiamo, ci ha dato questa notizia importante. Io la ringrazio, insomma, se non è perfetto il suo italiano, guardi che manca davvero pochissimo. La ringrazio davvero. Me la sono stato promosso da lei. A pienissimi voti per l'italiano, ovviamente, per il resto giudicano gli ascoltatori. Io la ringrazio, ministro Carmelo Mifsud Bonnici, il ministro dell'interno del governo di Malta, così come ringrazio Lawrence Hart, che a Tripoli, in Libia, è il responsabile dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Ci avete aiutato davvero, a mio modo di vedere, a capire qualcosa di più, insomma, di questo tema così complesso. Non è facile parlare sempre con persone autorevoli che non vogliono buttarla tutto anche molto in demagogia e frasi fatte su un tema così delicato. Allora, il Piccolo di Trieste, il quotidiano di Trieste, è andato un po' a spulciare quello che sono le presenze dei politici del Friuli Venezia Giulia. Saluto Roberta Gianni, collega, giornalista del Piccolo. Buongiorno, ciao Roberta. Buongiorno, ciao. Allora, sei partita da un registro, come in classe, no? C'è il registro nel quale i politici mettono la loro firma per il consiglio regionale, così. È un registro che assomiglia in effetti un po' in tutto e per tutto al registro di classe, che tutti noi conosciamo. E questo registro però ha una particolarità, che il consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia, ce ne sono 59 in questa legislatura, quando arriva firma e firmando autocertifica la propria presenza. Ed è proprio qui che iniziano i problemi. Perché molti firmano e poi... E poi si involano. No, ovviamente non si può generalizzare, però c'è un dato di fatto, che il sistema è molto fragile e si è dimostrato alla prova dei fatti, è un sistema che consente, che in qualche misura premia i furbi e non riconosce i più bravi, perché l'unico sistema di controllo che esiste in Friuli Venezia Giulia è proprio la firma che il consigliere può mettere su questo registro. Funziona così, lo spiego perché così risulta chiaro anche quali sono le pecche di questo quadernone gigante. Il registro viene apposto all'inizio di ogni seduta, quindi tendenzialmente alle 10 e poi alle 14:30, su un tavolinetto fuori dall'aula. Il consigliere arriva e firma, ma il registro rimane sempre lì e quindi il consigliere può firmare se è puntuale alle 10, ma se ad esempio arriva all'una o pochi minuti prima della fine della seduta mattutina, può ugualmente firmare. Non solo, firma, in teoria dovrebbe entrare in aula, ma solo in teoria, perché non c'è un controllo aggiuntivo che una volta che c'è la firma. No, ma tra l'altro, visto che voi insomma avete, tu hai visto, hai detto molte volte c'erano firme di presenti e poi la seduta è stata sospesa perché mancava il numero non coincidevano il numero delle firme nel registro e il numero di quelli seduti proprio sui banchi, sugli scranni. A questo proposito io voglio salutare il presidente del consiglio della regione Friuli Venezia Giulia, Edward Ballaman. Presidente, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, questo è un problema che credo di cui lei si è fatto carico. Effettivamente magari non eccediamo, però c'è questo problema, no? Di un mancato controllo. Anche perché tutti ci stupiamo quando beccano il dipendente pubblico che firma il cartellino e poi va a fare la spesa, grandi scandali. Come la mettiamo qui? Ma la mettiamo riportando le cose al loro posto. Uno, non è una questione di assenteisti, come è stato dichiarato su molti giornali, per semplificare, è un problema. Uno, di ritardatari. Allora, io sono di origine elvetica e quindi amo la precisione. Nelle convocazioni che faccio viene indicato il luogo, il giorno e l'ora. Il primo problema che si è verificato, e la giornalista Gianni, che saluto, può confermare, è quello che purtroppo molto spesso, come anche confermato anche dalle interviste rilasciate, sì, i consiglieri arrivano in ritardo. Allora io su questo mi sono fortemente quasi imbufalito, ecco. E ho precisato che appunto la convocazione prevede l'ora e da questo è nato poi anche tutto il problema, perché questa è una situazione che ereditiamo comunque da 50 anni di storia, insomma, certo. Non è che adesso sia stato modificato. Allora io penso che questo abbia già dato i suoi primi effetti, perché poi è da questa mia arrabbiatura che poi sono nati giustamente i servizi, gli approfondimenti. Secondo punto non accetto, io la mia esperienza da parlamentare, eccetera, per me l'aula è sacra, nel senso che non è giusto che i parlamentari facciano il loro lavoro tra l'aula e quello che è un po' per Montecitorio transatlantico, sì, cioè il lavoro che cioè si i corridoi, le sale. Non è un problema, e le spiego perché dico non è un problema di assenza. Non è un problema di assenza perché nella stragrande generalità dei casi, quando ci sono delle votazioni, sono costretto a passare tempo, e lo sanno bene i giornalisti che frequentano il palazzo, a scampanellare perché i consiglieri rientrino in aula, sì. I consiglieri ci sono, cioè sono nei paraggi, sono nei paraggi. Beh, allora però un problema c'è, però, cioè nel senso però che il problema c'è, perché per me l'aula è sacra, quindi io capisco che uno si debba assentare per fare un bisogno fisiologico, perché voglia salutare una persona di passaggio. Non accetto che invece il tempo dell'aula venga preso anche per svolgere altre attività sempre all'interno del palazzo. Presidente, faccia come alla Camera, mettete il controllo elettronico dei pianisti con le impronte. Io sono stato questore della Camera, sì, quindi conosco molto bene il problema. Il controllo elettronico che è stato messo finalmente ha una origine ben diversa, che era la questione dei pianisti. Ora, fortunatamente noi siamo in 60, 59 anzi per correttezza, e non siamo in 630. Il problema dei pianisti da noi è un problema che non esiste, quindi non facciamo di ogni erba un fascio. Questo il problema certamente. Dei pianisti, fortunatamente, quando i numeri sono piccoli, e questo è un motivo per cui il Parlamento dovrebbe ridursi anche, si lavora meglio sicuramente. E non esiste. Però, Presidente, questa immagine di lei che passa il tempo a scampanellare è davvero bella. No, nel senso, me la vedo, no? Che scampanella e fa l'appello un po', insomma, a richiamare adesso, i discoli. Adesso, grazie alla mia arrabbiatura, grazie alla denuncia del piccolo anche che è stata ripresa dai giornali, io penso che questo di fatto migliorerà sicuramente la situazione. Prenda dei provvedimenti. Io ho già in mente un paio di soluzioni. Ah, ce li dica, abbiamo 10 secondi, ce le dica velocemente. Velocissimamente, l'aula inizia alle 10, sì. Alle 10 il registro viene ritirato, viene posto dalle 9:30 alle 10. Benissimo. Alle 10 l'idea potrebbe essere quella di ritirare il registro e chi arriva viene a firmare alla presenza del segretario generale o del presidente con l'ora d'arrivo. Perfetto, quindi giustificare il ritardo. E secondo? Il secondo, se neanche questo dovesse essere sufficiente, ma esistono sicuramente la possibilità anche di monitorare le votazioni, non i minuti di presenza in aula, le votazioni, e chi non sarà presente, ipotizziamo probabilmente almeno al 50% più uno delle votazioni, sì. Perdere la diaria. Ecco, colpine nel portafogli. La seconda di più. La devo fermare, Presidente, che il tempo sta finendo, sta correndo. Presidente Ballaman, la ringrazio, così come Roberta Gianni del Piccolo. In chiusura io devo dare una precisazione doverosa, perché ci siamo occupati lunedì scorso dei magistrati onorari, vi ricordate, cioè i magistrati non togati che amministrano la giustizia. La rettifica è perché ho citato un servizio di Panorama nel quale veniva detto che il 100% delle sentenze civili a Treviso erano emesse da magistrati onorari. Ci ha scritto con doverosa precisazione il Tribunale di Treviso, i dati vanno rettificati, perché nel 2008 i 27 magistrati togati hanno preso 15.130 provvedimenti, vale a dire l'88% del totale, quindi l'88% dei provvedimenti al Tribunale di Treviso sono ascrivibili ai magistrati togati, solamente il 12%, vale a dire 2049 provvedimenti, ai magistrati ordinari. Questo dovevo, una doverosa precisazione, per la quale ringrazio il Tribunale di Treviso che ci ha fornito questi dati. Ci fermiamo qui, lunedì riprendiamo, grazie a Alessandro Marcotulli e Laura Marchesi in redazione, tra poco da Giuliano Ferrara un incontro con Piero Fassino del Partito Democratico, e noi ci sentiamo lunedì.